Non correresti mai con delle pinne. Non sceresti mai in costume. Brrr. C'è una soluzione giusta per tutto. In città la soluzione è nuova Renault Twingo Electric. Raggio di sterzata record da 4,3 metri e ricarica veloce. Da 89 euro al mese grazie a oltre 10.000 euro di vantaggi in caso di rottamazione e incentivi statali. TAN 525 e TAG 728. Salvo approvazione fin Renault. Con vendita privata Renault la tua concessionaria è online. Approfitta delle nostre offerte esclusive e puoi avere anche la consegna a domicilio. Info e condizioni presso la rete aderente. Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi, ascoltatori di Radio Buon Consiglio, vi do nuovamente il benvenuto alla catechesi a voi dedicata, Spazio Giovane per ragazzi. Chi vi parla è, come ormai di consueto, Don Leonardo Maria Pompei, che vi dice subito ben ritrovati e che è pronto ad andare avanti con l'aiuto del Signore. Vediamo se oggi riusciamo a concludere questa prima parte del nostro ciclo di conversazione dedicata al primo comandamento. E io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me. Voi sapete, ragazzi e ragazze carissimi, che noi stiamo affrontando la tematica dei 10 comandamenti appunto nell'intento di cercare di fare un pochino di luce su quello che è l'essenziale, ecco, della legge di Dio, oggi così tanto messa sotto i piedi e così tanto maltrattata e bistrattata. Ecco, la volta scorsa abbiamo visto una serie di peccati che vi ricordo contro la virtù teologale della fede, ecco, soprattutto l'ateismo, quello che Benedetto XVI chiama il relativismo, che abbiamo in quella sede insomma spiegato. Abbiamo visto il dubbio ostinato, parlando anche e spendendo anche qualche parola sul caso Galilei. Abbiamo fatto cenno allo scientismo, parlando un pochino dell'evoluzione, e qui tutti quanti i peccati che si possono commettere contro la virtù teologale della fede, tra cui, ultimi ma non in ordine di importanza, l'errore e l'eresia, oggi purtroppo così tanto diffusi e così tanto insegnati anche da chi dovrebbe essere ordinariamente maestro di verità. Prima di concludere, ci restano chiaramente da affrontare le altre due virtù teologali, no? Perché capite, studiando una parola brutta, insomma, analizzando, diciamo, conversando sul primo comandamento, dobbiamo ricordare dal catechismo che ci sono le tre virtù teologali, che sono quelle che ordinano il nostro rapporto con Dio, no? La fede, per mezzo della quale noi crediamo che Dio esiste anzitutto, tutto quello che Lui ci ha rivelato e che la Santa Chiesa ci trasmette e ci propone a credere, come si diceva nell'immortale catechismo di San Pio X. Oggi vedremo la speranza e forse, chissà, anche la carità, così concludiamo oggi, altrimenti ci aggiorneremo a martedì prossimo. Queste due virtù, sapete che la speranza è la virtù grazie alla quale noi attendiamo da Dio la vita eterna e le grazie necessarie per meritarle con le buone opere, che sono necessarie per andare in paradiso. Diffidate sempre da chi vi dice che Dio è misericordioso e che vanno in paradiso tutti, buoni e cattivi, cosa che non è, come vedremo oggi, vera. E poi la virtù teologale della carità, che chiaramente considereremo in questa sede. Sapete che la carità è una virtù che ha due direzioni, no? Qualcuno dice che è come un uccello che ha due ali, uno è l'amore di Dio, uno è l'amore del prossimo. Chiaramente, trattandone in relazione al primo comandamento, approfondiremo un pochettino la dimensione dell'amore di Dio, anche perché i comandamenti dal quarto al decimo fondamentalmente si occupano dell'amore del prossimo. Quindi vedete come questa virtù è fondamentale, la più grande di tutte le virtù, scrive San Paolo nel memorabile 13° capitolo della prima lettera ai Corinzi, l'inno alla carità, e praticamente questa virtù abbraccia tutto il decalogo, i primi tre comandamenti che, come dire, danno ordine e forma all'amore di Dio, e dal quarto al decimo che danno sostanza e contenuto all'amore verso il prossimo. Bene, allora, fatto questo breve preambolo, come sempre, introduttorio, andiamo subito nel merito di andare a vedere anzitutto quali sono i peccati contro la virtù teologale della speranza. Abbiamo detto che la speranza è quella virtù per mezzo della quale noi attendiamo da Dio la vita eterna. Quindi, capite, la speranza, diciamo che in qualche modo muove il nostro cuore, il nostro desiderio a tendere verso i beni che la fede ci presenta. Noi fondamentalmente la fede, il motivo della venuta di Gesù sulla terra e tutto, a che cosa è finalizzato? Alla salvezza dell'anima. Che cos'è la salvezza dell'anima? È andare in paradiso, è andare a realizzare il centro e il fine della nostra esistenza. Noi siamo stati creati per conoscere, amare e servire Dio in questa vita e per goderlo nell'altra. Noi siamo stati fatti per Dio, quindi il fine della vita umana è la visione beatifica, come la chiama il grande San Tommaso, e quindi è con lui tutta la Chiesa nel suo magistero. Quindi quando vedremo Dio faccia a faccia, quando saremo una cosa sola con lui. Questa verità di fede fondamentale deve essere il motore della nostra esistenza, cioè tutto deve essere finalizzato al raggiungimento di questo obiettivo, tutto deve essere posposto al raggiungimento di questo obiettivo e tutto deve essere sacrificato al raggiungimento di questo obiettivo qualora sia con esso incompatibile. Quindi la vita eterna, e non soltanto Dio ci ha promesso la vita eterna, vi ricordate, no? Il giovane ricco dice: che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? La prima cosa che Gesù gli dice: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quindi la vita eterna è una promessa, d'accordo? Però ci sono delle condizioni per raggiungerla, che è appunto l'osservanza dei comandamenti, per questo che li stiamo approfondendo. Ma per osservare i comandamenti, ci insegna l'antropologia cristiana, è necessaria la grazia di Dio, perché dopo il peccato originale la nostra natura umana è decaduta, quindi pur essendo capace di conoscere e discernere almeno in parte il bene, non ha la capacità e la forza di conseguirlo, realizzarlo. Perché questo accade, ci vuole la grazia di Dio, perché la grazia di Dio arrivi in noi, ci vuole di andarla a tingere con i mezzi con cui si ottiene o si accresce la grazia, e una volta ottenuta la grazia bisogna operare, quindi sforzarsi e mettere in pratica i doni naturali e di grazia ricevuti per poter fare la volontà di Dio. Ecco. Quindi oggetto della speranza fondamentalmente sono le promesse di Dio, quindi la vita eterna e tutti gli aiuti che Lui ci darà per raggiungere questo obiettivo. Al tempo stesso entra dentro questa virtù anche la considerazione e la dovuta attenzione che noi dobbiamo dare agli sforzi e a ciò che spetta a noi per raggiungere questo obiettivo. Sant'Agostino dice: Dio che ti ha creato senza di te, cioè noi non abbiamo nessun merito di essere stati creati, né abbiamo chiesto a nessuno di venire al mondo, non ti salverà però senza di te. E questo non ti salverà senza di te non è semplicemente, come dice qualcuno purtroppo oggi anche dentro la Chiesa Cattolica, come dire, una mera passiva accondiscendenza o acquiescenza con la divina misericordia, d'accordo? Quindi io devo semplicemente abbandonarmi al Signore e lasciare che Lui faccia tutto quello che vuole in me. Questa è un'eresia cominciata con Martin Lutero, proseguita attraverso nel XVI-XVII secolo attraverso l'eresia del quietismo, e oggi rinata attraverso polloni di vario genere che purtroppo hanno anche trovato qualche aiuola nel Sacro Giardino di Santa Romana Chiesa Cattolica. D'accordo? Ora, quali sono due gravissimi peccati contro questa virtù, che tra l'altro sono anche due peccati contro lo Spirito Santo? Qui, in questo tema, dobbiamo considerare il discorso del peccato contro lo Spirito, perché due dei peccati contro lo Spirito sono proprio direttamente contrari alla virtù della speranza. Allora, vi ricordate, ragazzi, no? Gesù nel Vangelo a un certo punto afferma che c'è un peccato, uno solo, che non sarà perdonato né nel secolo presente né nel secolo futuro, e parla del peccato contro lo Spirito Santo. L'occasione con cui lui fa questo discorso era stata data da queste circostanze. Praticamente Gesù aveva fatto un esorcismo, aveva cacciato un demonio. Voi sapete che ci sono tre segni certi che dentro un uomo, d'accordo, facciamo finta che Gesù sia un uomo normale, ci sia la mano di Dio. Sapete quali sono? Primo, la conoscenza certa di un futuro che San Tommaso chiama contingente. Il demonio non conosce il futuro in maniera precisa, cioè Dio ti sa dire in questo momento, io sto parlando in diretta oggi, martedì 4 dicembre 2012, sono le 16:45 al mio orologio. Dio ti sa dire adesso, di chiunque di voi sta ascoltando, guarda figlio mio, tu dopo domani alle 13:40 starai facendo questa cosa, in questo luogo, pensando questa cosa e quest'altra cosa. Perché la conoscenza che Dio ha del futuro è una conoscenza infallibile. Cioè Dio conosce tutto ciò che è stato e che sarà. Tra l'altro Dio conosce anche quello che sarebbe potuto essere, potrebbe essere e potrà essere e non sarà mai. Quindi adesso non entriamo in questo campo perché altrimenti ci perdiamo nei meandri della scienza di visione e della scienza di intelligenza, come li chiama San Tommaso d'Aquino. Però ci basta sapere questo qui. Il demonio questo non lo sa. Il demonio tira a indovinare, è molto intelligente, quindi prevede in maniera generica il futuro, ma quando qualcuno ti dice il futuro preciso, come per esempio hanno fatto i profeti, i veri profeti, lì c'è Dio al 100%. Il secondo segno della presenza di Dio è quando viene fatto un miracolo veramente tale, tant'è vero che voi sapete che la Chiesa prima di elevare un uomo agli onori dell'altare, proclamandolo beato prima e santo dopo, attende che siano attribuibili all'intercessione di quest'uomo, di questa donna, il primo miracolo per diventare beato e il secondo per diventare santo. Perché? Perché se attraverso l'intercessione di questo uomo e di questa donna è stato compiuto un miracolo, è certamente segno che quello sta in paradiso e quindi è un amico di Dio. Ecco perché viene fatto senza alcun dubbio santo. La terza cosa però è il potere sui demoni. Voi sapete che oggi nella Chiesa Cattolica gli esorcisti, in senso stretto, perché poi in senso lato, spero che sappiate che tutti sono esorcisti, d'accordo? Tutti quanti, non so, neanche soltanto i preti, anche i fedeli, nel senso che tutti abbiamo il compito di combattere il demonio con la vita santa, uno, con la testimonianza coraggiosa, due, con la preghiera e con la penitenza strappandogli le anime, d'accordo? Un sacerdote può anche combatterlo con qualche arma in più, perché ha la potenza delle mani consacrate, quindi può benedire le persone. Una benedizione di un sacerdote, non un esorcismo, ha una forza grandissima, credetemi, contro eventuali mali malefici. E poi c'è l'esorcismo in senso stretto, che nella Chiesa Cattolica può essere praticato soltanto, questa è una disposizione del diritto canonico ovviamente, quindi è mutevole, però oggi la disciplina è così, è da diversi secoli che è così, soltanto da quei sacerdoti che il vescovo, ritenendoli adatti, li nomina, diciamo così, ufficialmente. Quindi solo a quei sacerdoti è consentito di pronunciare il cosiddetto esorcismo maggiore, che nel rito romano tradizionale antico aveva tre forme, c'erano tre esorcismi maggiori. Adesso nel nuovo rito che hanno approvato con la riforma liturgica, che pare, dicono gli esorcisti, che sia un po' meno efficace, c'è soltanto un esorcismo maggiore, d'accordo? Ecco, quindi tutti possono fare le preghiere di liberazione, anche i laici, senza imporre le mani a nessuno, soltanto l'esorcista può fare l'esorcismo in senso stretto. Però nella Chiesa primitiva non era così. Sapete chi erano gli esorcisti? Ah, era facilissimo. Coloro dinanzi a cui il demonio ci aveva paura, cioè quando arrivava un ossesso e c'era qualcuno che aveva il coraggio di sfidare il demonio e di fare un esorcismo, quindi di intimargli di andarsene, e il demonio se ne andava, quello ipso facto, quindi automaticamente diventava esorcista. Perché? Perché se il demonio fugge dinanzi a qualcuno, non è che questo qualcuno sia chissà che o chissà che cosa, ma vuol dire che in quel qualcuno c'è la mano di Dio, quindi Dio gli ha dato quel carisma, quindi è Dio che usa quella persona per combattere il demonio in senso forte. Ed è il terzo presenso, ed è il terzo, diciamo, scusate, segno inequivocabile della presenza di Dio. Quindi riassumo, ragazzi, la conoscenza dei futuri contingenti, quindi dettagliata poi, nel particolare, il miracolo, il potere sui demoni. Allora, che succede quando Gesù scaccia questo demonio? Gli vanno a dire, pensate, è nel nome di Beelzebul, capo dei demoni, che tu cacci i demoni. Quindi era talmente tanto il livore e la volontaria chiusura anche dinanzi all'evidenza dei segni, che per andarsi a arrampicare, comunque il demonio l'aveva cacciato. Sapevano anche i farisei che cacciare il demonio era un distintivo della presenza di Dio, e quindi non sapevano cosa dire, vanno a inventarsi una cosa assolutamente assurda, che attraverso il capo dei demoni scaccia i demoni. E a questo riproposito Gesù parla del peccato contro lo Spirito Santo. Ve lo capite perché, no? Allora, il peccato contro lo Spirito Santo, che poi la tradizione teologica della Chiesa ha, come dire, enumerato 6 specie, adesso ve le nomino, dovreste sapere dal catechismo, di questo peccato, 2 delle quali riguardano la virtù della speranza, non è una cosa che Dio non perdona, come dire, perché non può perdonarla, o perché è un peccato troppo grande, o perché se la lega al dito, ma perché in tutte le 6 fattispecie sono indicate delle situazioni che dentro l'uomo producono una situazione di radicale e almeno momentaneamente irreversibile chiusura alla grazia. In altri interventi che ho fatto da questa radio, specialmente sulla confessione, che c'è tanta confusione, tanto per cambiare, come su tante altre cose, io ho detto tante volte: Dio perdona qualunque peccato, ma perdona qualunque peccato di chi è pentito. Essere pentito vuol dire riconoscere il peccato, umiliarsi, provare dolore, chiedere perdono e proporlo di non fare più. Ora, la situazione dei farisei determina una delle specie chiare di peccato contro lo Spirito Santo, che si chiama, dopo ve le dirò tutte quante, si chiama l'impugnazione della verità conosciuta, cioè dinanzi all'evidenza di un fatto, pur di negarlo, vai a fare delle cose assolutamente assurde. Questo determina una situazione di chiusura irreversibile alla grazia, perché come fa Dio a toccare i nostri cuori? Dio tocca i nostri cuori attraverso la verità. Noi dinanzi alla verità dobbiamo essere aperti anche ai segni che Dio ci manda, perché state attenti che non è vero affatto che Dio non manda segni, Dio i segni li manda, e come? Li ha mandati anche ai tempi di Gesù. Gesù i segni li ha dati tutti, quindi non è che Gesù si è accreditato come figlio di Dio così, e tu devi dire: vabbè, io ci credo perché ci voglio credere. No, Gesù l'ha dimostrato ad essere il figlio di Dio, ha fatto i miracoli, ha scacciato i demoni, leggeva i cuori, ha predetto il futuro e è risorto da morte. Bastano? Chi altri ha fatto le cose che ha fatto Gesù? Allora, le 6 specie di peccato contro lo Spirito Santo, l'impugnazione della verità conosciuta è questa dei farisei. Poi c'è quelle che vedremo oggi contro la speranza, la disperazione della salvezza e la presunzione di salvarsi senza meriti. Poi c'è l'invidia della grazia altrui, peccato bruttissimo. È il peccato, non so se conoscete un po' di storia sacra, è il peccato di Caino, uno dei 2 peccati, perché Caino ne ha fatti 2, e il peccato soprattutto di Saul contro Davide, se conoscete la storia. Saul ha cominciato a invidiare enormemente Davide e voleva ucciderlo. Ma è anche il peccato che hanno fatto i nemici di Gesù. Vi ricordate cosa dice il Vangelo? Pilato sapeva bene che gliel'avevano consegnato per invidia. L'invidia della grazia altrui è un peccato bruttissimo, cioè tu vedi davanti a te un santo e anziché ringraziare Dio che te l'ha mandato e umilmente riconoscere che tu non sei santo come lui e cominciare semplicemente ad imitare le sue virtù, riconoscendolo tuo maestro come doveroso, ti arrabbi perché quello è santo e te no, e cominci a perseguitarlo e a trovargli, a tendergli tranelli, a fargli trovare qualche cosa per farlo cadere o per andare ad accusarlo. Quindi capite perché è un peccato contro lo Spirito Santo? Perché Dio ti manda un santo. Il fatto che Dio ti mandi un santo, aver conosciuto un santo, avete mai conosciuto un santo? Io magari potessimo conoscere i santi. Perché il santo, molta gente dice: come mai che non ci stanno tanti santi oggi in giro? Come mai che tanti sacerdoti tutto fanno meno che i sacerdoti? E questo è un castigo di Dio, secondo me. Perché non ci rimeritiamo, perché siamo talmente tanto imbastarditi, perdonatemi il termine, nei nostri peccati, e ci siamo talmente insuperbiti in tutte le cretinate che oggi si dicono e si credono, d'accordo? Ecco, non ultime, vabbè, meglio che mi sto zitto, che il Signore dice, ah sì, questo ti vuoi, ti è te questo, e io i santi non te li mando. Capite? Cioè, avere un santo è un dono grandissimo, quindi sputare sopra un dono di quel genere, cominciare a tendere insidie al santo perché è santo, quindi a dargli il tormento, come hanno fatto per esempio con quel poraccio di Padre Pio, poraccio chiaramente umanamente parlando, il più grande santo forse della storia, ma i guai che gli hanno fatto passare, di tutti i tipi, capite? Poi ci sono le ultime due, che sono l'ostinazione nel peccato, e qui attenzione ragazzi, attenzione anche a non andare a fare le confessioni nulle, perché i peccati gravi si possono anche commettere più di una volta, ma ci devono essere sempre dei segni di miglioramento, perché Sant'Alfonso Maria dei Liguori insegna che il peccato abituato o il peccato in cui uno ricade senza nessun progresso, senza nessun segno di miglioramento, può essere perdonato la prima, la seconda volta, ma non la terza. La terza, il confessore vostro, se è confessore degno di questo nome, non vi deve assolvere subito, deve farvi fare un po' di penitenza prima, deve darvi dei buoni e salutari consigli che dovete mettere in pratica, e dopo che ha visto che uno ci sta mettendo un po' di buona volontà almeno per combatterlo, può assolverlo, altrimenti fa sacrilegio chi si confessa e fa sacrilegio il confessore, e tutte le comunioni che ci fai sopra sono tutti quanti sacrilegi. E infine l'impenitenza finale, peccato contro lo spirito, cioè è l'atto estremo di chiusura dell'uomo alla grazia dello Spirito Santo, cioè in punto di morte il Signore ti dà l'ultima possibilità di accogliere la sua misericordia e anche lì dici no a Dio che ti richiama e che ti invita a conversione. Quindi capite, questa è la gamma, cioè sono le specie in cui si come dire, estrinseca la fattispecie oscura e molto seria del peccato contro lo Spirito Santo. Quindi abbiamo capito che non si tratta di una non volontà di Dio o di non capacità di Dio di perdonare qualcosa, ma di una situazione che paralizza l'efficacia della sua misericordia a causa della chiusura del cuore dell'uomo. Ora, dopo l'Ave Maria, che adesso diremo sicuramente insieme, perché voi sicuramente la direte con me, che sono le 17, l'ora della Madonna della Medaglia Miracolosa, e approfondiremo quelle due specie di peccati contro lo Spirito Santo che si oppongono direttamente alla virtù teologale della speranza, che sono appunto la disperazione della salvezza e la presunzione di salvarsi senza meriti. Ora ci raccogliamo un attimo e diciamo insieme l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, entriamo dunque nel vivo di questi due peccati. Cosa sono questi due peccati e perché si oppongono alla virtù teologale della speranza? La disperazione della salvezza, il primo, è il peccato di Caino e di Giuda Iscariota. Fondamentalmente la disperazione della salvezza mette in dubbio il fatto che la misericordia di Dio sia talmente grande e infinita che può perdonare qualunque peccato a chi si pente, perché l'uomo possa raggiungere ciò che Dio stesso ha promesso, cioè la vita eterna, ed anche il riacquisto della grazia che dovesse aver colpevolmente perduto anche con il più grave e più brutto peccato. Ora, cosa fece Caino dopo il primo grande peccato mortale, dopo il peccato originale? Ha ammazzato il fratello Caino, e ha ammazzato il fratello per invidia. Sapete la storia di Caino e di Abele, no? Perché Caino era santo, perché Abele era santo e Caino no. Allora che succede? Offrono il sacrificio a Dio, Dio accetta il sacrificio di Abele, che era santo, e non accetta quello di Caino, che non era santo. Anziché dire, povero me, fammi prendere esempio da mio fratello, gli ha preso e gli ha piantato un bel pugnale sul cuore. D'accordo? Ecco, quindi l'ha fatta veramente grossa? Certamente, l'ha fatta veramente grossa. E quando uno l'ha fatta veramente grossa, cosa deve fare? Una cosa molto semplice: mettersi in ginocchio, battersi il petto, cominciare a piangere e rivolgersi all'infinita misericordia di Dio implorando pietà e misericordia. Non c'è altro da fare, ragazzi. Non c'è nient'altro da fare. Questo vale per tutti. Può succedere, ahimè. Uno può subire una grande tentazione, può avere un momento di debolezza, può farla grossa, sì. Ora, una volta, allora, state attenti, noi non dobbiamo mai abusare della misericordia di Dio. Cioè, non dobbiamo dire, adesso faccio questo peccato, pure grosso quanto una casa, tanto che mi importa, poi mi confesso e Dio mi perdona. Questo Dio non se lo fa fare. E Dio conosce i nostri cuori, eh? San Pietro nelle sue lettere scrive un'espressione molto significativa, difficilmente interpretabile, ma adesso che se mi state seguendo lo capite subito. Dice: la misericordia di nostro Signore Gesù Cristo, giudicatela come salvezza. Attenti, cosa vuol dire salvezza? Viene salvato una persona che si trova nei guai. Quindi, dopo che tu sei caduto in un mare di guai, alza gli occhi verso la misericordia di Dio, ma dopo, non prima. Non dice la misericordia di Dio consideratela come autorizzazione a peccare, tanto Dio ti perdona. No, la misericordia di nostro Signore Gesù Cristo giudicatela come salvezza. Allora, una volta che tu ti trovi nei guai, l'unica cosa sensata che hai da fare è confessarti e chiedere perdono e sperare, della virtù della speranza, che Dio ti perdoni. Basta. Giuda Iscariota che cosa ha fatto? Giuda Iscariota ha fatto il peccato in assoluto più grave e più grande che mai sia stato commesso e che mai sarà commesso. Ha tradito il Figlio di Dio e l'ha tradito nel modo più becero che potesse esserci, dopo essere stato per anni con lui, dopo aver sentito la sua voce, dopo aver mangiato con lui, dopo aver ricevuto tutte le sue attenzioni. E Gesù ha fatto il possibile per salvare quest'uomo scellerato. Cosa ha fatto? Dopo che si è reso conto di quello che aveva fatto, anziché andare al Monte Calvario come doveva, a piangere ai piedi della croce e a chiedere perdono, cosa che Gesù tante volte ha detto a tanti santi e mistici sarebbe stata la mia più grande gioia, vedere quel disperato, quell'essere abietto, perché tale era quest'uomo, venire a piangere ai piedi della mia croce, sarebbe stato il primo grandissimo frutto del mio sacrificio, addirittura prima del buon ladrone. Non ho avuto questa gioia, ha risposto Gesù. Quello è andato qualche centinaio di metri più in basso, sapete che il Monte Calvario si trova a Gerusalemme nord-ovest, ecco, è andato sul monte del cattivo consiglio, Gerusalemme sud-ovest, e si è impiccato. E chissà, dice qualcuno, chissà, se purtroppo da questi due monti si potevano in lontananza intravedere l'uno con l'altro, cioè Gesù che dalla croce con il suo sguardo umano, perché ovviamente con il suo sguardo divino non l'ha mai perso di vista, poteva vedere il corpo di questo disgraziato penzolare dall'albero e viceversa. Questo disgraziato prima di gettarsi su con il cappio giù con il cappio al collo non abbia visto Gesù, e anziché dire perdonami, aver sentito semplicemente il rimorso satanico, quindi il senso di colpa per essere stato la causa di quella tragedia. Capite? Questo è un peccato grave contro la speranza, perché nega l'onnipotenza della misericordia di Dio. Caino disse: troppo grande è il mio peccato per avere perdono. Voi capite che dietro questa frase, che sembra apparentemente umile, c'è una grande superbia. Perché tu dubiti dell'onnipotenza della misericordia di Dio e della grandezza infinita della sua misericordia. Allora, oggi si parla tanto a sproposito della divina misericordia, ma la divina misericordia, basta leggere il diario di Santa Faustina, è qualcosa di immensamente grande. Cioè, non esiste nessun peccato, ma neanche nessuna mole di peccati che possa superare o in qualche modo eguagliare la divina misericordia. Quanti peccati sono stati commessi dalla razza umana, dal primo all'ultimo uomo? Quanti ne vengono commessi ogni giorno? Ma il sacrificio redentore di Gesù ha la forza di annullarli e di perdonarli tutti, ma non soltanto tutti, ma di sovrabbondare, come dire, di ultra ripararli, capite? Tu non puoi pensare, per quanto l'hai fatta grande, che il tuo atto finito e limitato, perché comunque tale è sempre un peccato, qualunque esso sia, per quanto grave sia, possa in qualche modo essere più grande della Divina Misericordia. Quindi dietro questa apparente umiltà, dice, ah guarda, questo si è reso conto che l'ha fatta grossa, ecco, ben gli sta che adesso si automette in castigo, in realtà c'è un grandissimo atto di superbia. Quindi questo è il primo. Attenzione però, perché dopo c'è l'estremo opposto, oggi più diffuso, anzi oggi molto diffuso, che è la presunzione di salvarsi senza meriti. Allora, mentre il primo peccato nega l'onnipotenza della misericordia di Dio, il secondo abusa di questa divina misericordia e nega la grandezza della sua giustizia. Dio è misericordioso, ragazzi, ma Dio è anche giusto. Dio è giusto, ma è anche misericordioso. Io dico sempre, per far passare questo concetto, la misericordia di Dio è una misericordia giusta e la sua giustizia è una giustizia misericordiosa. D'accordo? Allora, l'atto di speranza dice che io certamente da Dio aspetto la vita eterna e le grazie, ma che per salvarmi sono necessarie le buone opere che io debbo e voglio, debbo anzitutto, quindi non sono pii consigli, i 10 comandamenti non sono pii consigli, ragazzi e ragazze, i 10 comandamenti sto parlando, eh? Domenica scorsa durante la predica ho detto, ma chi di noi, scusate, voi siete studenti, no ragazzi? La maggioranza spero che di quelli che mi stanno ascoltando saranno studenti, sono ragazzi. Faranno l'esame di maturità, faranno l'esame all'università, io l'ho fatto all'università, d'accordo? Chi è così stolto di andare a presentarsi a un esame senza aver studiato? Tanto ti bocciano poi, no? Allora, noi dobbiamo ricordare che al termine della nostra vita ci attende un esame. Lo sappiamo già, noi sappiamo già da prima le domande che ci saranno fatte, d'accordo? Il programma è un programma abbastanza ristretto, è quello che stiamo affrontando in queste conversazioni. Cioè, il Padre Eterno ci metterà davanti i 10 comandamenti, se li abbiamo osservati oppure no, questo è l'esame di maturità che dovremo fare dinanzi a Lui. Allora, però i comandamenti bisogna osservarli, ragazzi, quindi bisogna compiere, cioè, i comandamenti sono doverosi, non si chiamano consigli, si chiamano comandamenti. Cioè, attenti, il fatto che tu li possa trasgredire di fatto, noi abbiamo la possibilità di trasgredirli e apparentemente non succede niente. Cioè, se io dico una bestemmia, non è che nell'immediato Dio mi fulmina, assolutamente no. Apparentemente sembra che non succeda niente. Se io commetto un aborto, abominevole diritto, uno dei peccati più gravi che si possa fare, e che problema c'è? Sto andando a togliermi un qualcuna di queste, vabbè, lasciamo perdere i commenti, dice, sono andato a togliermi un ammasso di cellule dall'utero, no? Sembra che non succeda niente. Quindi, ma ragazzi, ma non è così, eh? Perché per ogni trasgressione ai 10 comandamenti vedrete poi quello che succede. Vedrete poi quello che succede. Non, cioè, la sanzione non viene applicata nell'immediato qui e adesso. È tutto rimandato, d'accordo? Fino a quando c'è la vita terrena, c'è la possibilità di pentirsi, di convertirsi, di fare penitenza, ma l'esame sarà fatto su questi e non è la stessa cosa averli trasgrediti o non averli trasgrediti. Lo dice Gesù nel Vangelo: io non sono venuto ad abolire la legge, ma a completarla, altro che abolire. Gesù dice non uccidere, ma io ti dico che tu fai peccato contro il quinto comandamento se ti arrabbi contro tuo fratello. Se poi gli dici stupido, sarai sottoposto al Sinedrio, se gli dici pazzo, cioè se lo offendi gravemente, andrai all'inferno, sarai sottoposto al fuoco della Genna. Quindi Gesù non ritocca affatto i 10 comandamenti. Prima era soltanto non commettere adulterio, poi se guardi una donna per desiderarla, poi se commetti anche un solo atto impuro, lettere di San Paolo e di San Pietro. Quindi non è stata abolita, è stata completata, arricchita. Allora, queste opere devono essere compiute e nessuno deve dire che sono impossibili, perché Dio non chiede le cose impossibili. Con la grazia tu devi e puoi osservare i comandamenti. La Chiesa ha sempre insegnato che noi siamo stati realmente redenti da Cristo. Non è come dice Lutero o come dice sempre qualcuno di cattivi maestri che circolano, e non faccio nomi e cognomi, ma tanto io so che se qualcuno li conosce mi capisce, dice, ah no, noi siamo peccatori, siamo peccatori, tu non puoi fare altro che peccati e ringraziamoci la misericordia di Dio. Ma questo non sta scritto da nessuna parte, i santi non hanno fatto i peccati, cioè facevano i peccati quotidiani. Un conto è fare un peccato piccolo, semideliberato, come si dice in ascetica, d'accordo? Cioè, in un momento che ti prendono alla sprovvista, ti capita, non lo so, una persona che non la sopporti più e ti scappa un pensiero di stizza. Non deve scappare, d'accordo? Non abbiamo fatto bene, dobbiamo cercare di dominarci sempre. Ma questo è diverso da fare un peccato mortale. Quando ti scappa un pensiero di stizza, un conto che ti scappa una bestemmia. Questo è diverso, questo qui, no? Quindi la Chiesa ha sempre insegnato che noi siamo stati redenti da Cristo, non per scherzo. Certo, rimane in noi la concupiscenza, che significa l'inclinazione al male, che è la condanna che ci portiamo dietro per il peccato originale, così ci prepariamo a celebrare la festa dell'Immacolata. Però con l'aiuto della grazia noi possiamo vincere le nostre cattive tendenze, e almeno i peccati mortali non si commettono mai, capite mai? Voi sapete che quando uno incontra uno come Padre Pio, che ha le stigmate addosso, si può anche permettere alcune cose. Se tu andavi a confessarti da Padre Pio con un peccato mortale, questo non lo dicono le persone che lo hanno conosciuto, non lo dice Don Leonardo, lui non ti dava mai l'assoluzione subito, mai. Dava le assoluzioni immediate o quando vedeva un grandissimissimo pentimento, e lui poteva vederlo perché aveva la visione dei cuori. Oppure quando gli confessavano i peccati piccoli, contro i quali era severo comunque. Andate a leggere gli scritti della sua figlia prediletta, il diario di Clonice Morcaldi, e vedete che quando gli dice, ho detto una bugia bianca, non si dicono le bugie bianche, perché Dio è verità, quindi non era tenero con nessun peccato. Però non è che mandava via Clonice Morcaldi perché aveva detto una bugia bianca, ma i peccati mortali sì, perché faceva così? Io non faccio così, ecco, e i sacerdoti oggi non fanno così, perché però se tu commetti un peccato mortale vuol dire che tu non stai vivendo la redenzione operata da Cristo, non stai vivendo una vita di grazia, stai ancora con il piede in due scarpe. I peccati mortali non si fanno, non si devono fare. Neanche quelli impuri, poi lo vedremo, dice, ma come fai? La castità prima del matrimonio, la castità perfetta, come si fa? Si fa come? Io ve ne porto quanti ne volete di ragazzi e di ragazze che lo fanno e come? E non sono tutti quanti chiamati a diventare preti, suore o frati, non è vero. Cerchiamo di farla finita con queste sciocchezze, Quindi si possono fare come? Ecco, allora io non posso, alla luce di questo, dire sì, ma non la stiamo a fare troppo, tanto li faccio e poi mi confesso e poi mi convertirò. Ma poi ti pare che Dio manda qualcuno all'inferno? Ti pare? No, ti pare che, oggi la dicono così, che la bontà di Dio, guardate, cioè le cose sataniche, io ho sempre detto che non abbiate paura delle manifestazioni straordinarie del demonio, che sono molto rare, anche se ci stanno. Abbiate paura del demonio quando fa il demonio, cioè quando ti presenta, come fece ad Adamo ed Eva, il frutto bello e gustoso al palato, nascondendoti il veleno che c'è nascosto dentro. Sentite i discorsi che fanno oggi, che uno dice, certo, ma non può essere così, no? Dice, ma ti pare che Dio, che è amore infinito, che è bellezza infinita, che ha creato la tua anima come un prodigio di bontà, che ha mandato il figlio per versare fino all'ultima goccia di sangue per te. Tolleri nel suo amore paterno che una povera creatura vada a finire all'inferno. All'inferno poi, così come lo descrive la tradizione cattolica, un'eternità di tormenti atroci. Eternità vuol dire interminabile, cioè, e Dio può tollerare una cosa del genere e rimarrebbe pure tranquillo. Ma per favore, va! E dove starebbe allora l'amore e la misericordia di Dio se tollera una cosa del genere? Che dite voi ragazzi dinanzi a questa cosa? Uno sente questo discorso e dice, beh certo, è vero, ma non è così, perché numero uno, Dio all'inferno non ci manda proprio che proprio nessuno. L'inferno non è altro che la prova suprema dell'esistenza della libertà dell'uomo. Lui ti ha detto fai alcune cose, ma tu sei libero di farle o di non farle con le buone opere che io devo e voglio fare. Noi abbiamo il libero arbitrio. Qualche autore, gli autori moderni dicono un sacco di sciocchezze, ragazzi, almeno questo è il mio umile pensiero. Ogni tanto dicono qualcosa di giusto, ovviamente, perché ecco. Qualche autore moderno, e io lo condivido in questo qui, sapete che c'è sempre stata una discussione teologica, dice va bene, noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, ma l'immagine di Dio e la somiglianza dove la vediamo in noi? Quasi tutti hanno sempre risposto, la vediamo nella parte spirituale nostra, no? Specialmente nelle nostre tre facoltà superiori, la memoria, l'intelletto e la volontà, che ci rendono simili a Dio, perché con l'intelletto pensiamo, con la volontà vogliamo le cose, con la memoria sappiamo ricordare, sono tutte quante facoltà spirituali, d'accordo? Sono tre, tra l'altro, che hanno qualcosa in comune con la Santissima Trinità, sono spirituali, come Dio che è puro spirito, eccetera. Qualcuno però, andando a approfondire un po', dice sì, ma l'insieme quando noi esercitiamo queste tre facoltà, congiuntamente, agiamo da uomini. E qual è proprio il distintivo dell'agire da uomo, che lo differenzia per esempio dagli animali? È che lui è sempre libero, cioè nei suoi atti, nelle sue scelte, è libero, cioè, capite? È libero. Quindi nel libero arbitrio c'è proprio una delle tracce della nostra somiglianza con Dio, perché Dio è il libero per antonomasia. Ed è libero tra l'altro in senso buono, perché Dio usa la sua libertà solo per fare bene, perché la libertà in senso stretto non è l'alternativa tra scegliere il bene e il male, quella è una debolezza, è il libero arbitrio che ce l'abbiamo noi che siamo imperfetti, ma la vera libertà, per questo Gesù dice se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, perché la vera la libertà consiste nella capacità di dire sempre di no al male e di dire di sì soltanto al bene, scegliendo tra vari beni possibili. La Madonna perché è così grande, l'Immacolata? Perché la Madonna, in ogni istante della sua esistenza, tra tanti beni possibili e graditi a Dio, sceglieva sempre il migliore, il massimo. Questa è la Madonna, la creatura libera per eccellenza, che ha usato la sua libertà in modo sublime. Capite? Ecco, allora, se uno dubita di queste cose, comincia a vivere come gli pare, tanto Dio è buono, oppure Dio non mi giudica. Io recentemente ho avuto qualche discussione da fare con qualche persona X, capite? Perché oggi la cosa balorda di questa brutta società è che non soltanto che si fa il male, ma si cerca l'approvazione del male, l'approvazione legislativa e l'approvazione ecclesiastica. Vedrete adesso che cosa succederà con questa storia delle unioni omosessuali. Io già ho passato qualche polemica in rete per aver detto chiaramente che non serve affatto fare nulla del genere, e parlo anche da persona che conosce la legge, perché sono più che sufficienti gli strumenti che l'ordinamento giuridico già pone a disposizione di questi poveri fratelli per la tutela dei loro giusti diritti civili. Bastano e avanzano. Non servono leggi su omofobie e non servono leggi su matrimoni gay da equiparare, non servono, anzi, d'accordo? Perché vogliono fare queste cose? Perché vogliono non soltanto fare il male, ma che il male appaia come bene, e lo cercano anche dai ministri. E ogni tanto mi sono trovato a dover cosare, insomma, persone che io conosco, convivono, mettono al mondo un figlio e vorrebbero che io gli dicessi bravo. Capitemi bene quello che sto dicendo, che sto in diretta radio, ecco, dopo andiamo a dire in giro cose strampalate. Una vita è sempre una vita, d'accordo? Come è venuta, è comunque una vita. Quindi una vita è sempre una benedizione di Dio. Però io sono un prete, Gesù Cristo ha istituito il sacramento del matrimonio, per cui i figli di Dio li fanno i figli e ne fanno pure tanti, tanti quanti Dio gliene manda, non tanti quanti scelgono di farli loro usando tutte quante quelle porcherie di contraccezioni di vario genere, ma li fanno dopo il matrimonio. Quindi non ti devi scandalizzare se tu fai un figlio e sei amico mio, e io non ti chiamo a dirti che bello, bravo, fanne un altro prima di sposarti. Vi assicuro che mi è successo. E azzardati andargli a dire che la libera convivenza è un peccato mortale. Questo lo dici tu, è la tua chiesa che punta sempre il dito. Dio non è così, Dio non giudica nessuno. Tu dici queste cose, ma tanto a me Dio non mi giudica, sicuramente lui comprende, e chi si è visto si è visto. Così ti rispondono. Peccato contro lo Spirito Santo, presunzione di salvarsi senza meriti. Tu non ti puoi rifare il decalogo a capoccia tua, né puoi impunemente trasgredire la legge di Dio pensando che poi Dio ti perdona. Non funziona questo. Purtroppo oggi non sono pochi, purtroppo anche qualche sacro ministro, a dire scempiaggini grosse quanto l'universo intero, che se non fosse per i danni immensi che producono e chi gli dà ascolto, enormi, cari ragazzi e care ragazze, sarebbero semplicemente da ignorare, a volte da farci una risata sopra, o semplicemente da commiserare, da dire ma poveri disgraziati che non sanno quello che dicono, che gli faccia il Signore un po' di luce a questi che servono, anche se non lo sanno e non lo credono, il principe delle tenebre. E sapeste quanti? È verissimo che Dio vuole che andiamo in paradiso, ragazzi, ci aspetta lì, ma per giungere a questa benedetta meta occorre compiere delle opere sante. Gesù dice passare anche per la porta stretta della croce della rinuncia, per la via obbligata dell'osservanza dei comandamenti. Nella lettera agli Ebrei troviamo scritto: dovete affrontare, non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato, fino al sangue, meglio la morte che un peccato mortale. Io sto a Latina, avevo già parlato via radio di Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti si è fatta ammazzare per non commettere un atto impuro, uè, e tu mi vieni a dire che ti devo fare i complimenti che hai fatto un figlio prima del matrimonio? Ma ci siamo impazziti? Ma vogliamo scherzare? Quindi, pertanto, chi presume stoltamente di poter confidare in questo modo sciocco nella misericordia di Dio, senza operare i doverosi sforzi ascetici per conseguire la meta della nostra fede, cioè la salvezza delle anime, commette gravissimo peccato di abuso della divina misericordia e di dimenticanza della divina giustizia. E se non corregge questa visione luterana e quietistica della giustificazione, non potrà accedere alla vita eterna e non entrerà nel regno di Dio. Questo, ragazzi, abbiamolo presente. Un altro peccato grave contro la virtù della speranza è un'altra vergogna dell'uomo intelligente, la superstizione. Non abbiamo tanto tempo, speriamo di... La superstizione consiste nel credere che alcune cose al di sotto dell'uomo, tipo date, astri, oggetti o cose del genere possano in qualche modo influire su quella che è la mia vita. Ma voi capite che questo è un peccato grave contro il primo comandamento? Perché c'è soltanto una cosa che può influire sulla nostra vita, una. Che Dio ti benedica o che Dio non ti benedica. Sapete l'unica cosa che dovete fare, ragazzi? L'unica. Chiedere ai sacerdoti di benedirvi, di benedire voi, di benedire i vostri oggetti sacri, di benedire le vostre case, di benedire le vostre macchine, i vostri motorini. E basta. E poi vivere in modo tale, osservando i 10 comandamenti della grazia, da non perdere la divina amicizia. E basta. Perché che le cose vadano bene o vadano male, come si dice, dipende soltanto dal Padre Eterno, da chi è più grande di te. No che se tu fai l'esame il venerdì 17 ti bocciano, no che il cornetto, il ferro di cavallo, l'oroscopo, il tarocco, il non passare sotto la scala, cade l'olio per terra, cade il sale, ti spazzano i piedi e non ti sposi, evitare il gatto nero, tocchi il ferro se ti vede una barra, tocchi il ferro qualche altra cosa, cioè, ma, uè. Allora, numero uno, dovete sapere che dietro molte di queste cose ci sono, tra l'altro, non soltanto la superstizione, che è già peccato perché è avvilimento dell'uomo a ciò che è meno di sé. Cioè, tu che sei un essere libero, pensante, intelligente, capace di governare il corso delle cose, ti credi che se passi sotto la scala ti porta male. Ma io, venite qui da me e vi faccio vedere che ci sto una giornata intera a fare su giù davanti alla scala. E non succede proprio niente, non succede. E io succede una cosa molto grave, se io faccio un peccato mortale, perché perdo la divina grazia, la mia anima diventa schiava del demonio, quella è una cosa grave. Non si passa sotto la scala. Quindi il buon andamento della nostra vita e delle nostre cose, ripeto, dipende da una cosa sola, la benedizione di Dio e la sua grazia. Quindi, preghiera, sacramenti e benedizioni. Oggi i preti non benedicono più. La benedizione di un prete, non ve lo dico io perché sono prete, è cosa potentissima. Voi sapete, le apparizioni che la Madonna fa a Medjugorje sono da prendere con le molle, sono oggetto di studio ecclesiastico, d'accordo? Ma non c'è solo quella. Però, ammettiamo che sia la Madonna che parla lì, gli portano sempre una caterva di oggetti da benedire. Lei dice sempre: io li ho benedetti, ma fateli benedire da un prete, perché la sua benedizione è più grande della mia. Se leggete la mistica città di Dio di Maria di Gesù da Creta, la Madonna, quando incontrava San Giovanni o San Pietro, si inginocchiava davanti a loro e si faceva benedire. La Madonna, chi era più santa, la Madonna o San Giovanni, secondo voi? Ma la Madonna si faceva benedire da San Giovanni. Quindi ritenere, come insegna San Tommaso d'Aquino, che la nostra vita possa essere condizionata in qualche modo da queste sciocchezze, ne ho soltanto citata qualcuna, oltre che offendere gravemente Dio, svela in maniera grossolana la stupidità dell'uomo, che è un essere intelligente, che degrada se stesso, che si auto presenta come abitante di Creta, cioè come cretino, pensando che cose inanimate o sciocchezze varie, molto al di sotto di lui, possano in qualche modo influenzare il corso della sua vita o degli eventi. Avete gli oroscopi? La luna si è messa di qua, quindi siccome la luna si è messa di qua, oggi ci avrai questo incontro amoroso, oggi le cose andranno male. Ma per favore, guardate, ecco. Guardate l'uomo qua, sì, e si pensano di essere tanto intelligenti poi qualcuno. Allora, il problema è questo qui, bisogna pregare, ragazzi, sacramenti e benedizioni e basta. Sapete che San Pio si permise di completare un celebre aforisma del grande Sant'Alfonso Maria de Ligure, una bella filastrocca che dobbiamo sempre ricordarci: chi prega si salva e chi non prega si danna. E San Pio aggiunse: chi prega poco è in pericolo. Quindi, vuoi che le cose ti vadano bene, vuoi avere una vita benedetta? Guardate che le vite maledette esistono, Ma le vite maledette esistono perché ci si è autoposti sotto il segno della maledizione, perché Dio non vorrebbe fare altro che spandere grazie e benedizioni dappertutto. Sono gli uomini che non se le prendono e che non le vogliono e che vanno a cercare queste sciocchezze di cui vi ho parlato oggi. Allora, mettiamo in pratica questa esortazione del santo stigmatizzato del Gargano, nostro caro e grande patrono anche sicuramente di questa radio, oltre che dell'Istituto dei Francescani dell'Immacolata, e tutto andrà per il meglio. Attenzione, attenzione a svuotare la casa, perché le case, io le benedico, sono piene di queste cose qui. Sarà il caso che ci facciamo un incontro. Queste cose vanno buttate via, perché oltre che attestare la nostra perpetua stupidità e quindi offendere Dio in quanto segni di superstizione, a volte portano anche la presenza di qualcuno. Dentro casa ci mettiamo dei quadri belli, quindi non roba egiziana, non roba africana, non gnometti, folletti, gufi, civette, eccetera, eccetera, e compagnia cantante. Ci mettiamo qualche bel quadro, mica dobbiamo fare un santuario, una bella immagine di qualche natura, di qualche paesaggio, cose pulite e sante, non quadri di nudi, non cose oscene e robe di questo genere, e qualche immagine sacra e basta, d'accordo? Onde evitare che poi, oltre che alla superstizione, si debba annidare intorno a noi anche qualcos'altro. Ecco. Ci abbiamo il Padre Eterno, stiamo con Lui e sotto le sue mani, ecco, dandogli culto, il culto e la gloria che merita, e la nostra vita sarà sempre una vita benedetta. Io vi saluto e vi do appuntamento, se vorrete, alla settimana prossima, dando a ciascuno di voi la mia povera ma potente benedizione sacerdotale, potente come quella di tutti i sacerdoti, augurandovi una santa festa dell'Immacolata e una santa seconda domenica d'Avvento a tutti. Ave Maria. Solo a novembre Dacia Duster Turbo GPL tuo da 6 euro al giorno, ovvero da 180 euro al mese, TAN 525, TAG 701, salvo approvazione Dacia PIN. Con vendita privata Dacia, la tua concessionaria è online. Approfitta delle nostre offerte esclusive, puoi avere anche la consegna a domicilio, info e condizioni presso la rete aderente.